Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: siamo, come già annunciato ieri, in diretta da Cernobbio, dalla prima giornata dei lavori dell'European House Ambrosetti. Questa mattina è intervenuto il ministro degli esteri Di Maio, domani sarà la volta del presidente del Consiglio Conte, ma anche poi tra sabato e domenica del leader della Lega Matteo Salvini, del segretario del PD Zingaretti, del ministro dell'economia Gualtieri. Per quello che riguarda gli ospiti, chiaramente di carattere nazionale, si è trattato soprattutto questa mattina, al di là di temi di cronaca, della sostenibilità di un nuovo modello di sviluppo. È chiaro che il ragionamento, come già si faceva ieri con chi fa gli onori di casa, Valerio De Molli, è che cosa resterà di questa crisi, di questo shock innescato da una pandemia, che cosa resterà della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta, quali nuove forme di crescita economica si possono individuare. E a questo proposito, oltre al tema che abbiamo già affrontato anche nei giorni scorsi di filiere più corte nella produzione, il cosiddetto reshoring, cioè il riportare alcune produzioni, se non proprio in casa, almeno nel continente o comunque geograficamente più vicine, questo ha anche come effetto, diciamo, collaterale e magari indiretto delle tensioni che si sono avute per i vari lockdown nei paesi, ma comunque c'era una sensazione già prima di un'esigenza anche per le tensioni commerciali tra aree, pensiamo Stati Uniti e Cina, non solo, nel riportare più vicino a casa alcune produzioni, accorciare un po' le filiere, quello che era invece il mantra della globalizzazione, filiere lunghe a livello globale, in cui tu andavi a prendere i prodotti, li assemblavi, i semilavorati, i lavorati, e per poi arrivare al prodotto finale. L'altro tema, dicevo, però, su una nuova forma di crescita e anche una nuova forma di globalizzazione, riguarda il tema della sostenibilità, e partiremo subito con questo. Poi daremo anche conto, come sempre, dei mercati finanziari, di altre dichiarazioni emerse, nonché delle notizie di carattere internazionale. Sui mercati vi dico solo che oggi sono tutti deboli: -1% Milano, -1% anche Parigi, e l'1,40 lo perde Francoforte. Dow Jones -1,70%. Sono stati creati negli Stati Uniti 1.370.000 posti di lavoro nel mese di agosto. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 10,2 all'8,4%, ma è una crescita del mercato del lavoro più lenta rispetto ai mesi precedenti. Infatti a luglio si erano creati 1.700.000 posti di lavoro, 4.800.000 a giugno. Il dato è comunque leggermente migliore delle attese, e anche il tasso di disoccupazione è migliore delle stime. Interessante, come chiosa, notare che tra i posti che si sono creati, nuovi posti di lavoro che si sono creati negli Stati Uniti nel mese di agosto, sono inclusi anche le 238.000 assunzioni per effettuare il censimento, e quindi, diciamo, un'iniziativa chiaramente una tantum da questo punto di vista. Ma ne parleremo anche nel corso dei mercati finanziari. Poi, come sempre, presenteremo la ricerca che ogni anno fa con vari amministratori delegati e imprenditori Radio Corri Sole 24 Ore sulle attese che hanno i partecipanti anche al workshop Ambrosetti sul futuro della borsa e dei mercati finanziari. E ascolteremo invece anche altre dichiarazioni sulla politica estera di carattere anche economico del ministro Di Maio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora partiamo con il primo tema di questa giornata di lavori, e mi riferisco alla sostenibilità ambientale. Se ne è discusso discusso soprattutto questa mattina, perché lo dico perché è stato presentato un rapporto importante curato sia da A2A, e quindi una municipalizzata, una delle più grosse municipalizzate italiane quotate in borsa, sia per quello che riguarda invece il coté del workshop Ambrosetti, quindi le European House Ambrosetti. Siamo ci ha raggiunto nei nostri studi qui a Cernobbio l'amministratore delegato di A2A Mazzoncini. Buonasera dottore, innanzitutto. Buonasera Barzoni, e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, voi avete presentato un rapporto che ha cercato di fotografare tutto sommato quello che è lo stato dell'arte sul fronte, da un lato, rinnovabili, dall'altro economia circolare, e quindi la capacità di introdurre poi di non disperdere quanto prodotto e riutilizzarlo anche per fini energetici. E poi il tema dell'acqua. Andiamo con ordine, però. Lo stato dell'arte nella transizione verso le rinnovabili in questo paese. Ma allora, l'Italia ha uno zoccolo duro di rinnovabili, che sono il nostro sistema idroelettrico, fortunatamente da 100 anni in funzione e che continua a mantenere un buon livello di produzione. E poi abbiamo avuto un'accelerazione col fotovoltaico importante negli anni dei conti energia, quindi una decina d'anni fa. Ora lo sviluppo c'è stato anche nell'eolico, ma quello che preoccupa è che è emerso da questo studio è che, se guardiamo il trend di sviluppo delle rinnovabili degli ultimi 5 anni e lo proiettiamo al 2030, ci troviamo con un gap importante rispetto all'obiettivo che ci siamo dati, coerente con gli obiettivi della Comunità Europea, del White Paper, di arrivare al 30% di energie rinnovabili sul totale dell'energia primaria consumata entro il 2030, e rischiamo di essere al 22%. Quindi in qualche modo il messaggio è che bisogna trovare il sistema di accelerare. 8 punti percentuali sotto l'obiettivo del 30% di energia prodotta rinnovabile. Esattamente, nel 2030. Che è l'obiettivo minimo da raggiungere per arrivare poi alla decarbonizzazione completa del 2050. Ecco, il motivo di questo ritardo, Mazzoncini, perché sappiamo che una volta sulle fonti rinnovabili c'era un tema anche di costi. Le pagavamo in bolletta, diciamo, integravamo quello che era un costo più alto delle energie rinnovabili con un pagamento in bolletta, e questo frenava poi, al di là della spinta, dell'incentivo, ma le rendeva un settore, mi passi il termine, assistito, nel senso rispetto a un settore che può vivere tranquillamente sul mercato. Ma sono successe due cose che possiamo osservare. Una, che c'è stata una riduzione importante della taglia media degli impianti. Siamo passati da una taglia nel 2011 di 54 kW a una taglia media di 12, quindi si è ridotta del 75% la taglia media degli impianti. Quindi è chiaro che, voglio dire, se devi raggiungere un obiettivo importante e lo devi fare con tanti piccoli passi, fai più fatica. La seconda è che tutti gli impianti, diciamo, di taglia maggiore richiedono una cosiddetta autorizzazione unica, che in alcuni casi concreti ha richiesto fino a 8 anni negli ultimi anni. Quindi, come dire, bisogna trovare il sistema assolutamente di accelerare gli iter autorizzativi. Invece, quello che diceva dal punto di vista economico, direi che è la sorpresa positiva, cioè quella che è successo negli ultimi anni è che il costo di produzione di un kilowattora da produzione eolica è scesa fino a 6-4 da 6 a 4 centesimi al kilowattora, dipende ovviamente da quanto vento c'è nella zona dove si installano gli impianti, e il fotovoltaico è sceso fino a 3, anche 2 centesimi al kilowattora. Per capirci, una produzione a gas oggi richiede circa 6-7 centesimi al kilowattora. Quindi sembrerebbe, voglio dire, che le rinnovabili hanno effettivamente già battuto i combustibili fossili, quindi il termoelettrico in costo di produzione. Ovviamente c'è un dato che va considerato, perché non è così semplice, cioè che i sistemi rinnovabili sono intermittenti per loro natura, perché madre natura mette a disposizione sole, certo, evento quando vuole. Quindi occorre abbinare a questi sistemi di stoccaggio dell'energia, quindi batterie, adesso semplificandole, che consentono di accumularla quando viene prodotta e mettere a disposizione quando serve. Su questo i costi sono ancora abbastanza elevati, siamo scesi anche qui da $1,100 al kilowattora di batteria del 2010 agli attuali $150, qualcuno stima che entro il 2025 saremo a $50, anche Elon Musk lo stima, quindi, voglio dire, abbiamo delle autorevoli ipotesi in questo senso. Quando questo avverrà, effettivamente noi ci troveremo con le centrali rinnovabili che potranno sostituire definitivamente. Però lei ci sta dicendo, Mazzoncini, che adesso il costo, diciamo, per produrre con le rinnovabili è sceso anche sotto il costo del materiale fossile? Sì, sto dicendo che mentre fino a qualche anno fa effettivamente le aziende che producevano energia, come anche la nostra 2A, mantenevano ancora un certo livello di scetticismo sul passare decisamente agli investimenti sulle rinnovabili, questo livello di scetticismo è completamente decaduto. Quindi in questo momento è solo questione di avere effettivamente le concrete opportunità per fare nuovo sviluppo. Ecco, su questo sappiamo, che è un vecchio cavallo di battaglia, che il diavolo si nasconde nei dettagli, e in questo caso i dettagli sono di carattere burocratico. Quanto ci vuole per realizzare, cioè c'è un imbuto a questo punto sulla realizzazione di nuovi impianti, perché se il costo industriale, diciamo, non è più il problema e non è più bisogno di essere assistita o in qualche modo incentivata, dov'è che si crea l'imbuto? L'imbuto per quanto riguarda i grandi impianti, pensiamo a un campo eolico o un grande campo fotovoltaico, è fondamentalmente di tipo autorizzativo, peraltro comprendendo anche che siccome si impatta sui territori occorre che ci sia lo spazio e il tempo per il dibattito e la condivisione sul territorio, però questo va fatto, diciamo non possiamo metterci 8 anni a autorizzare un nuovo impianto. Cioè 8 anni ci vogliono mediamente? Non mediamente, però ci sono stati molti casi concreti in cui i tempi sono stati questi. Oh, allora, si lega al tema delle rinnovabili il tema chiaramente dell'economia circolare. Tutto rientra nel grande cappello della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico. Economia circolare, lo dico male, ma per farmi capire, significa la possibilità di riutilizzare il più possibile un bene prima di che sia semplicemente uno scarto inutilizzabile. Si fa in due modi. E lo sappiamo tutti noi che facciamo la differenziata, o utilizzando quel bene per riprodurre quel bene stesso, plastica su plastica, carta su carta e via così, oppure nella parte finale utilizzando gli scarti per la produzione di energia elettrica, di energia in generale, chiaramente energia elettrica. A che punto siamo anche qui nel paese sul fronte dell'economia circolare e del trattamento, quindi tutto ciò che può evitare il cosiddetto conferimento in discarica? Lo dico perché questo programma ha fatto una polemica che per anni su questa opposizione ottusa ai termovalorizzatori, si preferisce continuare in alcune regioni, soprattutto del centro-sud, a mio avviso anche per interesse della criminalità organizzata, che ha tutto l'interesse nel mantenere un'opinione pubblica, diciamo, contraria ai termovalorizzatori. C'è il business delle ecomafie, non lo scopre certo sottoscritto. Ma fatto sta che mentre nel centro-nord tu hai una distribuzione anche abbastanza importante di impianti che producono energia elettrica utilizzando lo scarto di quello che non si riesce a riciclare, nel centro-sud, nel sud soprattutto, c'è ancora una forte prevalenza del conferimento in discarica, che nell'ottica di un'economia circolare è la sconfitta finale, cioè più io conferisco in discarica più è una sconfitta verso il riutilizzo, lo capisce anche un bambino. Allora, a che punto siamo nel paese? Beh, allora intanto un elemento statistico che fa abbastanza spavento è il fatto che in Italia abbiamo ancora il conferimento in discarica che vale il 21,5% dei nostri rifiuti. Teniamo conto che ci sono, l'obiettivo che ci eravamo dati era di arrivare al 10%, e ci sono diversi paesi in Europa, non so, la Svezia, la Finlandia, la Germania, il Belgio, che hanno azzerato il conferimento in discarica. Cioè non portano nulla in discarica? Nulla. Ma come, ci sono alcune regioni d'Italia, Lombardia e l'Emilia per esempio, che l'hanno azzerato. Allora, quindi, come dire, si può fare. Ovviamente noi siamo i primi sostenitori del fatto che occorre per prima cosa recuperare la materia, e quindi lavoriamo per impianti di trattamento e recupero della plastica, del vetro, della carta, però dobbiamo avere in mente due cose. Il primo, che anche il recupero di materia ha un suo scarto, cioè noi raccogliamo la plastica nei sacchetti che poi conferiamo alla raccolta differenziata, non tutta quella plastica, non il 100% di quella plastica è recuperabile, quindi uno scarto del 20% c'è sempre, idem vale per la carta o per il vetro. Quindi, o per i metalli, insomma, o per tutti gli altri rifiuti. Quindi vuol dire che c'è una componente che rischia sempre di finire in discarica se non trovo il sistema di gestirla diversamente. E la gestione diversa è per forza trasformazione in energia, che richiede il cosiddetto termoutilizzatore. Il termoutilizzatore, tra l'altro, ha uno scarto minimo, che sono delle polveri che negli ultimi anni, lavorando con fornitori delle imprese edili, siccome sono materiali inerti, si possono riutilizzare per esempio nel mondo dell'edilizia, degli asfalti e quant'altro, quindi azzerando completamente il ciclo. Ma d'altra parte, se pensiamo all'alta trasformazione in energia, quello dei rifiuti umidi urbani, non è che la buccia di banana possiamo ritrasformarla in una materia, quindi voglio dire, in questi casi le due soluzioni sono o trasformare trasformarle in biogas, quindi impianti che trasformano l'umido in biogas, oppure le trasformiamo in compostaggio, che è quello un po' più classico che conoscono tutti. Ma i volumi sono tali per cui, ancora una volta, se non li utilizziamo anche per la trasformazione in biogas e biometano, finiscono in discarica, con danni ambientali evidenti. Quindi insomma diciamo che per fare questo occorrono degli impianti, e il problema è che mentre nel nord Italia gli impianti sono piuttosto diffusi e coprono sostanzialmente l'esigenza, nel centro-sud, come diceva correttamente, non ci sono, o meglio, forse la regione più virtuosa è la Campania, dove da 10 anni, proprio a 2A, avete ad Acerra, no? Esattamente, il termoutilizzatore. Gestisce un termoutilizzatore che è quello di Acerra, gemello di quello di Brescia sostanzialmente, che oggi consente alla Campania di trasformare in energia il 60% di quello che sennò andrebbe in discarica. Cioè, invece che andare in discarica, il 60% diventa energia. Esatto, il resto 40% viene esportato, perché questo è quello che succede. Quindi diciamo che diventa energia in altri paesi, se non ricordo. E diventa energia in altri paesi, con che ovviamente che bisogna pagare per prendere i rifiuti. No, ma noi abbiamo parlato molte volte anche del caso della regione Lazio, per cui praticamente i rifiuti che non riescono a essere riutilizzati nel Lazio vanno sostanzialmente in Austria, c'era in Austria e in Svizzera, se ricordo a memoria, c'era un paesino che, quindi noi non solo li dobbiamo pagare, o meglio, loro vengono pagati da noi per accogliere i nostri rifiuti, ma li trasformano loro stessi poi in energia. Ci sono vari casi di paesi che sono autosufficienti grazie ai rifiuti, paesi, città, intendo dire non nazioni, grazie ai rifiuti del Lazio. No, questo lo dico perché vedo già i primi messaggi di alcuni geni che, pur di non avere il termovalorizzatore, è chiaro che poi in Svezia, in Germania sono tutti pazzi, anche nel centro-nord Italia, preferiscono che lo Stato italiano paghi, paghi dei soldi ai paesi Svizzera e Austria per utilizzare i nostri rifiuti, e a questo punto, oltre al danno, anche la beffa, perché ci producono anche energia elettrica con i rifiuti dei laziali, vengono illuminate le lampadine in Svizzera e in Austria. Però l'ho interrotta, ma al di là di alcuni casi virtuosi, anche qui la debolezza dov'è? Nel sud? La debolezza è anche qui nella decisione di realizzare impianti, tra l'altro ripeto, non solo impianti da termoutilizzatori, ma anche impianti di trasformazione della raccolta umida in biometano e impianti di trattamento dei rifiuti per la trasformazione in materia. Quindi voglio dire, siamo carenti, in particolare nel centro-sud, in tutta questa filiera, e se non ci dotiamo di impianti il risultato sarà o continuare il conferimento in discarica, e infatti siamo al 21,5%, che sono volumi e tonnellate enormi, vuol dire che stiamo riempiendo, cioè, tuttora un quinto di quello che produciamo come finisce rifiuti in discarica. Finisce in discarica, che è tantissimo, che è gravissimo, perché essendo una media di Trilussa, questo vuol dire che in alcune regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, siamo a zero, e in altre regioni sarai al 40%, cioè anche praticamente più, quasi più della metà se ne va in discarica. È così, e tra l'altro con procedure di infrazione, quindi costi, certo, con la Comunità Europea, discariche che si stanno esaurendo, quindi è una come dire, è anche una soluzione temporanea che non può andare certo avanti in eterno. Ultimo tema, e poi lo dico che mi sta scrivendo, invece riprendiamo anche le altre notizie in breve, perché commenteremo i mercati e quant'altro, però è l'ultimo tema. Riguarda, voi ne avete parlato questa mattina nel vostro rapporto, il tema dell'acqua. Ora, quando noi parliamo di economia sostenibile, economia circolare, purtroppo, lo dico, pochissime volte viene citato l'elemento idrico, che è una risorsa, diciamo, non infinita. Ma non viene citato perché non rientra quasi mai né nei ragionamenti o nelle contrapposizioni, per esempio, sui termovalorizzatori o su come avere un maggior rapporto alle fonti rinnovabili. Nel 2011, se non ricordo male, c'è stato un referendum sull'acqua pubblica. Ora io vorrei capire poi che cosa è successo, perché lo dico agli ascoltatori, il tema dell'acqua in Italia non è la qualità dell'acqua, ma è la rete idrica italiana. Ce ne siamo occupati molte volte, sia per la storia degli acquedotti pugliesi, ma non solo, che ha un tasso in alcune regioni di dispersione che è di oltre la metà, cioè di metà di quello che poi effettivamente solo metà arriva effettivamente nel rubinetto, l'altra metà viene dispersa lungo la rete idrica, e non si tratta certo di un'irrigazione a goccia, ecco, non porta nessun beneficio. Allora, che cosa è successo, come sta andando l'implementazione della rete idrica italiana? Ma allora, l'idea che mi sono fatto sul tema idrico, che è un tema rilevantissimo per la evidente ragione che la risorsa idrica, l'acqua, è la risorsa più importante del pianeta, e che anche in Italia non è più considerabile una risorsa infinita, e lo sanno i territori che incominciano ad averne scarsità, quello che è successo dopo il referendum del 2011, che ovviamente essendo un'indicazione politica dei cittadini bisogna rispettare, è che forse è stato troppo velocemente tradotto nell'equazione acqua pubblica, quindi gestione da parte di, dei comuni tramite gestione di piccole municipalizzate in house. Perché che cosa è successo? Dati alla mano, l'Italia ha infrastrutture che per il 60% hanno più di 30 anni e per il 25% hanno più di 50 anni e che nella distribuzione stanno perdendo 47,9% dell'acqua che distribuiscono. Cioè, quindi avevo ragione, la metà praticamente non arriva in rubinetto. È così. Abbiamo, procedure di infrazione sul tema della depurazione, quindi quello che succede dopo il rubinetto dei cittadini, che ci sta costando circa 500 milioni di euro da qui al 2024. E abbiamo un tasso di investimenti per risolvere questo problema di 40 euro annuo a cittadino, che è il più basso d'Europa tranne la Romania e Malta, okay? Con una media europea che è oltre 100. Quindi questa è la situazione. A questo punto, rispettando l'indicazione politica dell'acqua pubblica del referendum, a mio avviso quello che potrebbero fare aziende come le nostre, che sono diciamo delle aziende di diritto privato, anche se, come ricordava all'inizio, siamo di proprietà di due comuni e abbiamo una parte quotata in borsa. E siete quotati in borsa, certo. Dov'è che si potrebbe lavorare? Si potrebbe lavorare su tre aspetti. Uno è proprio la depurazione. Io immagino che il cittadino sia molto attento all'acqua che gli arriva fino al rubinetto. Cosa succede dopo, dal momento in cui va in fognatura in avanti, forse meno rilevante. Invece queste società dei comuni sono costrette a investire oggi per le procedure di infrazione prevalentemente sul tema della depurazione. Lì potremmo intervenire noi. Seconda cosa, non esiste in Italia una rete unica nazionale, ma non esistono neanche connessioni tra le province o tra le regioni. Cioè, a differenza della rete elettrica, dico Terna, o della rete del gas, Snam rete gas. Qui non esiste nulla, quindi ognuno ha il suo pozzo, ha la sua fonte o il suo approvvigionamento d'acqua, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. E non esistono reti, quindi su scala geografica più ampia, che possono consentire di avere davvero l'acqua pubblica per tutti. Quindi su questo bisogna avviare degli investimenti molto importanti. In Italia si stima che siano 30 miliardi gli investimenti da fare sulla rete idrica. Ecco, su questo comparto, per esempio, potrebbero intervenire le grandi multiutility. Ecco, mi faccio capire una cosa però. Le società pubbliche che gestiscono la rete su base, diciamo, regionale, non su base nazionale, ma hanno un problema loro di investimenti, cioè di capitale per finanziare gli investimenti? Direi che le gestiscono su scala regionale, ma ragione è sbagliato, perché in Italia noi abbiamo 8.000 comuni e 2.551 società che gestiscono l'acqua, quindi ce n'è uno ogni tre comuni. Su scala diciamo provinciale o comunale, intercomunale? Quindi siamo proprio su scala comunale. La verità vera è che oggi siamo in una situazione in cui ogni società gestisce mediamente tre comuni. Quindi che cosa succede? Che sono società troppo piccole e che non possono contrarre debito per due ragioni. O perché sono 100% di un comune, quindi se contraggono debito per il patto di stabilità si consolida con quello del comune, quindi non possono farlo. Oppure perché, pur essendo magari un pochino più grandi, non hanno una bancabilità, voglio dire, una solidità sufficiente a gestire grandi investimenti. E tutti sappiamo che per gestire grandi infrastrutture, e qui stiamo parlando di 30 miliardi, occorre essere in grado di fare debito e ripagare poi negli anni con la tariffa l'infrastruttura. Quindi il problema è proprio un tema genetico di questo tipo di società. A questo punto è per questo che credo che si potrebbe riaprire il dibattito, cercando di capire in che maniera portare investimenti privati in settori idrici che sono meno sensibili. Citavo il tema della depurazione, certamente meno sensibile di quello della potabilizzazione, per esempio, ma molto rilevante dal punto di vista degli investimenti. Oppure garantire tra territori, pensate in Toscana, per esempio, per non citare sempre le regioni del sud, certo, o le isole, che problemi idrici ci sono, perché mancano di fatto grandi bacini di raccolta, mancano infrastrutture regionali che garantiscano la rete comune dell'acqua. Ecco, su questi temi, visto che tra l'altro l'autorità ARERA ha incominciato a normare molto bene sull'acqua, secondo me bisogna assolutamente andare avanti e bisogna portare i capitali di aziende di diritto privato come le grandi multiutility a lavorare su questo. Sì, non c'è nulla di strano, anche perché multiutility per sua definizione si occupa appunto di varie fonti e forme di energia. Grazie anche a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, e adesso andiamo sul meteo e la pubblicità. Saluti a tutti. Focus Economia. 17:36 minuti, abbiamo un po' ribaltato la scaletta, ma volevamo in punto intercettare anche il mister Regato di A2 Amazzoncini. Adesso ripartiamo anche con le altre notizie in breve. Non avevo dubbi che sarebbero arrivati SMS, WhatsApp di chi dice attenzione, l'aria e la diossina, chi se ne frega. Allora, due piccole cose. Abbiamo fatto decine di puntate ricordando quali sono le emissioni dei termovalorizzatori, perché dobbiamo sennò supporre che tutti i paesi del centro nord Europa siano dei pazzi. In secondo luogo, visto che in alcune parti d'Italia, non so se lei scrive da quelle, si arriva al 40-60% di rifiuti che vanno in discarica, lei cosa pensa che succeda poi nella discarica? Chiedo, cioè che resti lì in maniera inerte per decine d'anni? No, chiedo, cosa succede in discarica? Delle volte veramente è solo un pregiudizio. Abbiamo fatto l'esempio di quanto emette l'inceneritore di Brescia, che è un decimo di tutta la diossina che viene sviluppata a Napoli durante il Capodanno, magari non questo Capodanno, ma in un Capodanno diciamo normale, non in versione Covid. Ma tanto, quando c'è una, è un po' come il terrapiattismo, cioè tu puoi cercare di dimostrare in tutti i modi, con numeri, dati alla mano, esempi di altri paesi, in Danimarca la pista di sci sopra il termovalorizzatore. Se uno non continua a pensare che la terra sia piatta, poi fa la fine dei due veneti che sono arrivati a Lipari, dove cavolo sono finiti con la barca, a Ustica invece che arrivare a Lipari usando la bussola, che tra l'altro prevede esattamente un elemento diciamo di terra rotonda e non di terra piatta. Ma comunque continuate a pensare che il termovalorizzatore sia da questo punto di vista peggio della discarica. Evidentemente, ripeto, ci sono popoli che secondo me a noi potrebbero anche dare qualche lezione di rispetto sull'impatto ambientale, che invece questo dubbio non ce l'hanno e hanno raggiunto lo zero assoluto in la Germania stessa come conferimento in discarica dei loro rifiuti. Va bene, va bene, si fa per dire, andiamo avanti con le notizie. Abbiamo dato, prima di passare ai mercati, il dato sulla disoccupazione americana, che comunque è calata, meglio delle stime. Per quello che riguarda invece l'Europa, continuano a esserci due fronti molto distanti sulla Brexit, perché da un lato Boris Johnson crede ancora alla possibilità di un accordo con l'Unione Europea, sul modello di quello che Bruxelles, che l'Europa ha costruito con il Canada. Però ci sono dei punti di divergenza ancora molto significativi, e però Johnson dice il 31 dicembre la transizione finirà in ogni caso, cioè o con la hard, come si chiama in gergo, con la Brexit dura senza accordo, o con una Brexit con un accordo sul modello di quello canadese, per esempio, il 31 il Regno Unito uscirà dalla Gran Bretagna, dell'Europa, scusatemi il lapsus, dall'Europa, anche senza accordo. Tant'è che poi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto che prima o poi il Regno Unito dovrà chiarire cosa vuole fare sulle relazioni future post Brexit. Non possono pensare di lasciare il club dell'Unione Europea e mantenere tutti i privilegi, ha detto Michel, e che non ha voluto fare pronostici. Ha detto: noi vogliamo un accordo e lavoriamo per questo, però bisogna essere in due per ballare il tango. E per l'Unione Europea l'intesa non sarà a qualsiasi livello. E anche su questo devo dire che in questo caso sono d'accordissimo con la posizione europea. Cioè gli inglesi, bontà loro, vorrebbero ottenere il massimo dei benefici della Brexit e il massimo dei benefici come se fossero ancora in Europa e il massimo dei vantaggi come se fossero usciti dall'Europa. Il tema della circolazione delle persone, delle merci, le richieste che arrivano dall'Europa per avere una Gran Bretagna che si mette a fare concorrenza sleale, quindi accordi anche di carattere commerciali, però su questo insomma gli inglesi devono dirci che cosa vogliono fare. Poi se sono così convinti di poter arrivare a una Brexit tranquillamente con tutto quello che è il crollo economico del PIL anche in Gran Bretagna, evidentemente avranno le loro certezze. Vedremo se vi sarà qualche ravvedimento in corso d'opera da qua al 31 dicembre. Ah, Allora, sempre sui dati economici europei, la Germania, gli ordini all'industria sono saliti del 2,8% a luglio, è un dato molto importante visto che noi abbiamo nella Germania il primo partner nelle esportazioni, soprattutto della meccanica di precisione. Più 2,8% è un po' più basso delle attese, anzi un bel po' più basso, erano di un 5% di rialzo. Venendo poi all'Italia, al di là insomma, di alcune dichiarazioni che ascolteremo dopo, oggi il ministro Amendola ha detto attenzione, l'anticipo del Recovery Fund potrà partire già da gennaio, l'anticipo del 10%, però il piano che dobbiamo presentare, e abbiamo il periodo, abbiamo già iniziato ad agosto e abbiamo da qua fino a metà ottobre, poi fino a inizio gennaio, il piano deve essere molto dettagliato, avere costi, tempi e cronoprogrammi chiari. Questo mentre oggi il segretario del PD Nicola Zingaretti ha detto vogliamo che arrivino anche le risorse del MES, la parte destinata all'Italia per quello che riguarda il MES, anche qui non torno sul tema per il tipo di finanziamento che il MES comporta, e è stato chiarito anche dal commissario europeo Gentiloni quando è venuto in audizione 2 giorni fa che il MES Covid non ha le condizionalità che hanno gli altri che aveva il MES originariamente. Dicevo, c'è un risparmio più o meno di 500 milioni di interessi se tu dovessi ricorrere sul mercato con un'obbligazione all'anno, che per i 10 anni di durata del rimborso sono circa 5 miliardi di risparmio. Però poi anche qua non torno sul tema del MES, perché se poi c'è qualcuno che è convinto che tanto apre la strada a condizionalità, ricordo che anche andare a chiedere i soldi sul mercato apre la strada a condizionalità, poi sei esposto quanto a debito, lo sappiamo benissimo con lo spread, a quello che è il giudizio del mercato. Interessante invece la dichiarazione del ministro Patuanelli, che oggi in un'intervista alla stampa dice attenzione, il super bonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale, per le coperture sarà usato in parte il Recovery Fund, in parte invece fondi di carattere nazionale. Ancora per quello che riguarda invece altre notizie di carattere economico, oggi qui dal workshop Ambrosetti è arrivata anche la stima su quello che dovrebbe essere l'andamento, la chiusura del PIL a fine anno. Siamo a un meno 10,8%, la forbice previsionale è molto ampia però, perché va da un meno 7,8% a un meno 13,8%. Il problema è che l'impatto sarà pesantissimo sul settore manifatturiero, meno 21,4%. È chiaro che il PIL ha varie componenti, servizi, manifatture, così. In alcune componenti avrai riduzioni più basse, pensiamo a tutto ciò che è legato al mondo del pubblico impiego, dove per fortuna non si è scaricata nessun licenziamento né altro, ma nella parte manifatturiera e non oso pensare poi nella parte servizi collegati al turismo, il crollo del fatturato è previsto al 21%. Poi oggi c'è stata anche la memoria dell'Ufficio parlamentare di bilancio depositata in Commissione bilancio al Senato. Ha detto che le maggiori uscite nette, come conseguenza degli interventi straordinari lanciati dal governo, caleranno progressivamente, passando da 17 miliardi a quest'anno a 9 miliardi nel 2021 e poi 3 miliardi nel 2022. Ha anche segnalato come nel 2021 vi saranno maggiori entrate per 3,7 miliardi e poi che le risorse complessive, questa potrebbe essere una buona notizia, dedicate alle integrazioni salariali con la causale Covid-19 e quindi casa integrazione in primis, appaiono superiori alle esigenze, perché a fronte di una spesa, dati INPS alla mano, una spesa stimata di 13 miliardi al netto delle contribuzioni figurative, nel trimestre maggiormente colpito dall'emergenza Covid, marzo-maggio, la spesa effettiva è stata di 3,8 miliardi senza contare però eventuali ritardi nelle erogazioni. Ritardi ci siamo, abbiamo ricevuto anche qui e continuiamo a ricevere, soprattutto per la cassa integrazione in deroga, segnalazioni di ascoltatori che hanno o lo hanno anticipato ai loro dipendenti o sono dipendenti che la stanno ancora aspettando, insomma lì su quello l'elemento più debole, da quello che abbiamo visto, di tutte le misure economiche messe in piedi dal governo, continua a essere la cassa integrazione in deroga. Probabilmente era sbagliato affidarsi alla cassa integrazione se poi la deroga doveva passare, nonostante i correttivi fatti nel decreto di agosto per le regioni, forse bisognava dare un'altra formula. È chiaro che quella riguarda soprattutto poi le situazioni più fragili, perché essendo quella fino a un dipendente riguarda le microimprese, che di solito sono quelle che hanno anche meno capitale, quindi hanno meno fieno in cascina per reggere il colpo. Lì noi continuiamo, avremo sfiga noi, insomma, a ricevere segnalazioni di ascoltatori. Questo è l'ufficio parlamentare di bilancio, però dice attenzione che al netto dei ritardi l'utilizzo della cassa, di risorse per la cassa integrazione è stato di gran lunga sotto le esigenze. Questo potrebbe essere una buona notizia, perché se tu hai stimato 12 miliardi e 800 milioni, quasi 13 miliardi, dovessi utilizzarne molti meno, è chiaro che sono meno soldi che escono dalle casse dello Stato. L'Istat dice la ripresa prosegue ma ancora sotto i livelli pre-crisi, e nel turismo 6 imprese su 10 temono per la loro sopravvivenza. La quota delle imprese che ha lamentato seri rischi operativi per la sopravvivenza è al 38% a livello complessivo, ma in alcuni settori, tipicamente quelli legati al turismo, si arriva quasi al 60% e al 66% nella ristorazione. Ecco perché continua a dire il prossimo decreto, quello settembre, ottobre, non lo so quando, dovrà distinguere tra settore e anche all'interno dello stesso settore, perché basta poi fare un'indagine del genere, mentre la media è di 4 su 10 che temono per la sopravvivenza, che vuol dire che in alcuni settori è 2 su 10, in altri è 6 su 10, come appunto ristorazione e mondo alberghiero. La Corte dei Conti oggi, in un'altra memoria depositata al Senato, chiede di semplificare le politiche per la tutela e il reinserimento sul fronte del lavoro, ma anche di prevedere un legame tra il bonus e le situazioni economiche dei beneficiari. Sostanzialmente dice, dopo il bonus da 600 euro per tutti, che abbiamo visto ha creato anche distorsioni, nella prima fase di aiuti occorre differenziare moltissimo in base alle condizioni economiche dei lavoratori. Nel frattempo al Senato è passato, ma non c'erano dubbi, il DL semplificazioni, 157 sì, è stata stralciata dalla Presidente del Senato Elisabetta Casellati la norma sulla lingua tedesca in Alto Adige, era stata inserita, ne abbiamo parlato a lungo, con un emendamento della capogruppo della Schutiro Volkspartei Julia Unterberger, dichiarato improponibile, avrebbe consentito alla provincia autonoma di Bolzano di assumere personale sanitario che conoscesse solo la lingua tedesca e non l'italiano. Poi Compascio, il presidente della provincia, ha detto no, ma riguarda solo la sanità privata, e abbiamo già avuto modo di rispondere che la risposta era parziale e non esaustiva, perché un cittadino italiano, che sia altoatesino, che sia romano, che sia pugliese, quando si reca in Alto Adige deve avere la possibilità di andare anche nella struttura privata e avere un medico che capisca la sua lingua, se no avremmo rischiato nel medio termine di avere una sanità privata magari in Alto Adige tutta fatta da medici che sanno solo l'italiano, se poi vogliamo, che sanno solo tedesco. Se poi vogliamo raccontarci che la sanità privata non serve, che basta diciamo quella pubblica, stiamo raccontando un altro film. E comunque non è corretto che se io ho bisogno di un privato, di un pediatra privato, e lo voglio pagare in Alto Adige, rischi di avere un pediatra che sa esclusivamente il tedesco, con una certa difficoltà a capire le esigenze del genitore italiano in Italia, dove c'è passaporto italiano e dove il confine, che mi risulti, è ancora al Brennero. Allora, adesso andiamo sul traffico e poi andiamo invece a parlare della borsa oggi e in realtà anche del sondaggio poi di Radio Coris sulle 24 ore. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dunque, la borsa oggi negativa, l'abbiamo detto, tutte le borse europee, ma per quello che riguarda poi i singoli indici, adesso ve li do, meno 0,80, meglio la chiusura non è sui minimi, meno 0,80% Milano, meno 0,90 Parigi, meno 1,70 Francoforte, meno 0,90 Londra, Dow Jones meno 1,75% nonostante i dati sulla disoccupazione. Quindi chiedo intanto il quadro generale ad Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano, è stata ancora una giornata segnata da un brusco dietrofront del Nasdaq, quindi a sostenere le posizioni di chi ritiene che insomma, la distanza tra i valori espressi soprattutto dal listino dei tecnologici e quelli dell'economia reale, quelli espressi dall'economia reale sia un po' eccessiva. Quindi dopo i continui abbiamo visto sia ieri che oggi il Nasdaq perdere, ieri il 5, oggi sta perdendo il 4%, quindi una forte correzione che secondo qualche operatore potrebbe anche essere arrivata alla fine, quindi aver esaurito in un paio di sedute una correzione fisiologica visti i continui record, ma che di fatto ha oscurato il dato che tu ricordavi, cioè la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti ad agosto superiore, leggermente superiore alle attese, 1,37 milioni di posti, e soprattutto un forte calo del tasso di disoccupazione rispetto a quello che ci si aspettava, un dato più vicino al 10%, intorno al 9,8%. Questo ha portato una flessione anche per quanto riguarda gli indici europei, che hanno chiuso con un flessione non incredibile, solo Francoforte superiore all'1%, ma comunque con una correzione rilevante che ha certo portato Piazza Affari a perdere nel complesso della settimana il 2%. Allora andiamo sui singoli titoli. Sebbene si sono mossi alcuni bancari, mi riferisco a Banco BPM più 3,80% e poi anche a Banca Generali più 2,90%, poi Case New Holland più 1,93%, Prismian più 1,70%, Fiat Chrysler più 1,60%, Pirelli più 1,60%. Anch'essa chiudo con Unicredit che ha guadagnato l'1,20% e Buzzi Unicem l'1,20%, Moncler l'1,14%. Fronte opposto Exor, la controllante del gruppo Fiat, meno 4%, Era meno 3,5%, Atlantia meno 3,20%, Italgas meno 2,60%, come Snam, Steam Microelectronics meno 2,40%, Inuit meno 2,40%, Terna meno 2,20%, come Saipem ed Enel, A2A meno 1,50%, Nex meno 1,70%. È stata una giornata debole per le utilities, se ho ben visto, e l'abbiamo appena ricordato, Exor invece hanno pesato i dati. Sì, assolutamente, questa semestrale presentata ieri con 1,3 miliardi di euro di perdite ovviamente ha pesato sul titolo, sono perdite soprattutto legate all'effetto Covid sulle controllate che Exor ha in pancia, prima fra tutte le società dell'automotive, ma Fiat Chrysler, CNH, Ferrari eccetera, e diciamo i risultati si sono fatti sentire sulla borsa, mentre gli altri settori penalizzati sono stati appunto le utility, in particolare Atlantia, e legato proprio al movimento del Nasdaq di cui parlavamo prima, la flessione superiore al 2% di ST Microelectronics, il principale titolo del comparto tecnologico che viene espresso dal nostro FTSE MIB. Allora Mediaset, allora cosa è successo a Mediaset? La Corte Europea ha annullato sostanzialmente una sentenza storica, secondo molti, diciamo, senza giudizio di valore, ha accolto la tesi di Vivendi e in qualche modo ha smentito la legge Gasparri, la norma sulla quale l'Agicom aveva intimato ai francesi di scegliere o mantiene la tua partecipazione in team o in Mediaset. Sostanzialmente in questo modo, la dico male ma per farmi capire, ha detto che Vivendi può mantenere la quota anche in Mediaset. Già ieri vi erano stati movimenti sul titolo, la reazione oggi è sempre su Mediaset. Mediaset ha reagito ancora in forte rialzo, ha guadagnato il 5,7%, qui ci si aspetta quantomeno che dopo 4 anni e mezzo di di braccio di ferro, sia arrivato il momento per Mediaset e Vivendi di mettersi al tavolo seriamente, di riuscire a trovare un accordo, e quindi un accordo che sblocchi poi quelli che possono essere progetti futuri di Mediaset. Ma da qui poi si va anche proprio sugli aspetti e le conseguenze della cancellazione di alcuni punti della legge Gasparri, che tu ricordavi, a ipotizzare che invece Vivendi possa volere una presenza più forte, o addirittura arrivare a un'offerta su Mediaset, senza dimenticare che oggi non solo Mediaset, ma tutto il settore dell'editoria, un po' sulla possibile revisione della legge Gasparri, si è mosso, e il titolo migliore, oltre a Mediaset, è stato un titolo sempre di casa Fininvest, cioè Mondadori, ha guadagnato l'11%, anche perché, va detto, questo è arrivato un po' in coincidenza con le notizie sul stato di salute di Silvio Berlusconi, che fanno anche speculare alcuni operatori sulla possibilità che un riassetto in maniera del tutto impropria, lo dico in maniera molto chiara, visto che città di migliori, appunto Mondadori più 11,11, Mediaset più 5,75, molto bene oggi Pris più 39,20, WebSolute più 9,90, Commerzbank più 9,40, Fronte Opposto Acotel Group meno 13,70, Key Group meno 10,50 e Full Six meno 8,80%. Andrea Fontana resta con noi, perché dopo invece vorrei capire l'esito del sondaggio annuale che Radiocore compie con gli operatori finanziari sul futuro della borsa, le aspettative sulla borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, GR24. Focus Economia. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dagli studi di Radio 24 a Villa d'Este, dove si sta concludendo la prima giornata dei lavori del workshop Ambrosetti. Abbiamo iniziato il programma proprio su uno dei temi più discussi anche oggi, la sostenibilità, cioè su un nuovo modello di sviluppo, una nuova, qualcuno l'ha chiamato una nuova modello di globalizzazione, non solo di filiere più corte ma anche di un modello economico più sostenibile. Devo dire che con Mazzoncini siamo andati anche molto nel concreto prima, per capire che cosa manca all'Italia sul fronte delle rinnovabili, dell'economia circolare, quindi riciclo più possibile, e anche sul fronte idrico. Invece eravamo rimasti sui mercati finanziari, perché al di là appunto dell'ottimo andamento di Mondadori e anche di Mediaset, segnalo due cose. Una sempre sul tema delle telecomunicazioni: il consiglio di amministrazione di Tiscali, che si è riunito ieri, ha ribadito la sua disponibilità a un possibile ingresso in FiberCop, quindi la società che dovrebbe nascere tra TIM e con l'ingresso anche da Cassa Depositi e Prestiti. Notizia, elemento su cui si era molto mossa proprio su Tiscali la borsa in questi giorni, mentre confermo, perché forse non l'avevo data, che una nota di Palazzo Chigi ha individuato in Milano, la Presidenza del Consiglio ha individuato in Milano la città candidata a ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale. Una nota di Palazzo Chigi per avere Milano quale candidata per la terza sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti a livello europeo, e sarebbe al fianco di Parigi e Monaco nel compito di registrare le nuove scoperte e soluzioni ideate nel campo delle scienze umane e del settore farmaceutico. Quindi è arrivata all'ufficializzazione della candidatura di Milano come terza, appunto, città a livello europeo dopo Parigi e Monaco per il Tribunale dei Brevetti dell'Unione Europea. Ora, al di là dell'andamento dei mercati che abbiamo commentato fino a qualche istante fa, vorrei capire, sempre con Andrea Fontana di Radio Core di Sole 24 Ore, come è andata e che risultati ha portato il sondaggio che ogni anno Radio Core di Sole 24 Ore compie con diciamo, c'era anche quello di agosto condotto da Assium Forex, e compie in occasione del workshop Ambrosetti, e vorrei soprattutto con Andrea Fontana capire le differenze, diciamo, sostanzialmente nell'ultimo mese. Andrea, se ben ricordo, un mese fa l'89% degli intervistati vedeva i mercati in rialzo o stabili, cioè il 60% in rialzo, 29% stabili. Devo dire che in parte hanno avuto anche ragione. E ricordiamo magari a chi si rivolge il vostro sondaggio e poi iniziamo a capire cosa è cambiato in un mese, visto che un mese di questi tempi vale quanto un anno in tempi normali. Prego. Il sondaggio è realizzato presso l'Assom Forex, cioè l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, quindi operatori che appunto tutti i giorni sono sul mercato. La variazione rispetto al mese precedente è già significativa, in parte probabilmente perché, come ricordavi tu, ci avevano azzeccato, diciamo, cioè il mese di agosto è stato particolarmente brillante per la borsa americana, ma anche per le borse europee e per Milano, tant'è che questo ammontare di ottimisti, questa percentuale di ottimisti che era dell'89%, è invece scesa a fine agosto all'80%, ma con una composizione abbastanza diversa. Se prima quelli che vedevano i mercati a rialzo erano il 60% del totale, adesso si è ridotta sostanzialmente a un 40% che vede i mercati ancora con potenzialità di rialzo e un altro 40% che li vede sostanzialmente stabili. E se vogliamo, il movimento che c'è stato in questi due giorni, che ricordavamo un po' innescato, imbeccato dal dietrofront del Nasdaq, conferma come ci fosse bisogno e ci fosse anche sentore di una correzione dei mercati. È cresciuta invece la percentuale, diciamo, dei pessimisti o dei ribassisti, coloro che uno su cinque vede invece un mercato in flessione da qui in avanti. Che cosa invece hanno detto gli operatori per quanto riguarda l'euro e per quanto riguarda i titoli di Stato? Per quanto riguarda l'euro, nonostante questa settimana ci sia stato il raggiungimento del massimo da due anni sull'euro dollaro con una quota sopra l'1,20, una buona parte degli operatori vede ancora potenzialità, il 40% vede ancora un rialzo dell'euro dollaro e un altro 36% vede invece una stabilità, quindi nonostante la correzione che c'è stata tra ieri e oggi, che ha riportato il cambio a 1,18, ancora si vede un trend dove il dollaro sarà penalizzato rispetto alla moneta unica. Stabilità rispetto ai valori attuali anche per i titoli di Stato, visto che ormai da settimane la soglia dei 150 punti di spread è un po' quella di riferimento intorno al quale si sta muovendo il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco, e il 55% degli operatori vede ancora questa soglia sostanzialmente come un punto di riferimento, anche se prevalgono gli ottimisti di chi dice che nel breve questa soglia sarà rotta a ribasso, quindi lo spread sarà al di sotto dei 150 punti, soglia che è ancora ritenuta da molti, prima fra tutti il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, come una soglia un po' eccessiva nell'esprimere il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Ma quindi con un'attesa di una riduzione di questo differenziale, cioè lo spread? Sì, assolutamente, con un'attesa maggiore di riduzione sotto i 150 punti. Ecco, sugli elementi invece negativi, cioè la parte che, come tu ricordavi, adesso può sembrare poco il 10%, ma parliamo di un mese solamente, quali sono stati gli elementi di maggiore incertezza citati? Sicuramente l'elemento di maggiore incertezza è quello dell'andamento dei contagi, che sarà l'elemento da tenere sotto osservazione da parte degli operatori, e in questo senso anche le conseguenze per l'economia che dai contagi deriveranno, soprattutto se si dovesse arrivare ad a nuove misure di restringimento. Poi, però Andrea, da quello che ho capito emerge anche, ne parlavamo prima nel corso dei mercati, quando tu citavi il Nasdaq, emerge anche forse un maggior timore su quanto, la dico in maniera un po' brutale, su quanto i mercati potranno continuare a ignorare l'impatto, diciamo, del Covid sull'economia globale, poi sulle singole economie dei vari paesi. Cioè abbiamo anche commentato in questi mesi, la cosa, diciamo, interessante è stata che da questo punto di vista non c'è stata una grande corrispondenza. I mercati sono cresciuti molto in questi ultimi mesi, ignorando di fatto l'andamento, le prospettive economiche e il peggioramento delle prospettive economiche. Sì, questo sicuramente c'è, questo elemento che ricordavamo anche prima parlando del Nasdaq, che è stato anche messo in evidenza dalle dichiarazioni del presidente dell'Asian Forex Massimo Mocio, che ha proprio sottolineato come sarà più difficile, questo è il timore degli operatori, che i mercati finanziari possano sostenere le valutazioni attuali, soprattutto se la pandemia non dovesse risolversi in maniera positiva in tempi brevi, sia con un riassorbimento, una restrizione dei casi, sia con l'individuazione e quindi poi l'utilizzo, certo, di un vaccino che possa evitare appunto effetti ulteriori. Quindi questo scostamento è uno delle incertezze, tenendo presente che appunto la temperatura dei mercati probabilmente sarà ancora segnata nelle prossime settimane dai dati sulla diffusione del contagio, come è stato, diciamo così, anche se poi si bisogna sempre tenere presente il riferimento dal punto di vista finanziario è la risposta che le banche centrali potranno dare e che ancora a fine agosto è stata ribadita dalla Federal Reserve una disponibilità, diciamo così, di sostenere l'economia, e quindi questo ulteriore elemento è da considerare accanto a quello ovviamente della evoluzione della pandemia. Chiaro, grazie anche ad Andrea Fontana. Adesso andiamo sul traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, qui in diretta da Chernobyl, workshop Ambrosetti, dove già ieri abbiamo raccontato come si stia tenendo, alcuni mi stanno scrivendo, ma che edizione è? Un'edizione chiaramente molto in digitale, con molti collegamenti in digitale, in video conferenza, con una presenza anche fisica, con molta attenzione chiaramente a tutti i dispositivi di sicurezza. Devo dire che la sala in realtà risulta quasi piena, come pur avendo un distanziamento come nelle altre occasioni. È una Chernobyl in cui, al di là degli interventi in remoto di Ban Ki-moon, di Hillary Clinton, di Macron, del Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha, diciamo, di questo letto il messaggio di Mario Monti e di Ilaria Capua, vedrà la presenza fisica di altri partecipanti, cito a livello internazionale soprattutto il Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, ma anche al Serrai sul fronte libico, sul fronte europeo Viviane Reding, mentre è sul fronte europeo anche la presenza del commissario europeo Paolo Gentiloni. Sul fronte politico invece Matteo Salvini, Corrado, Roberto Maroni, Enrico Letta, e sul fronte governativo i ministri Nunzia Catalfo, Paolo De Micheli, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese, Paola Pisano, e domani sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A proposito appunto degli interventi di politica nazionale, oggi ha aperto così le danze il Ministro Di Maio in mattinata, che è intervenuto appunto come primo esponente del governo in questo workshop. Ha chiesto che vengano sì ridefinite le regole del commercio internazionale, ma evitando guerre commerciali che quindi indeboliscano poi le possibilità di crescita. È inoltre nostro interesse che siano ridefinite regole del commercio che favoriscano scambi equi ed evitino una nuova stagione di protezionismo. Abbiamo bisogno di crescita, non di guerre commerciali. Solo con un sistema multilaterale forte, sano, in grado di rinsaldare la fiducia reciproca, potremo affrontare le sfide globali del nostro tempo. Sempre sul fronte internazionale, e in questo caso più europeo, Di Maio è intervenuto sul debito comune, su cui non c'è ancora assolutamente consenso. Già è stato faticosissimo arrivare al Recovery Fund, che di fatto però è per la prima volta una condivisione del debito e del nuovo debito che verrà creato. Di Maio ha detto che bisogna superare il tabù dell'indebitamento comune, e questo costituirà la base per il piano di rilancio europeo e per la futura crescita europea. Sin dalle prime fasi della pandemia abbiamo richiamato Bruxelles e i partner europei a una maggiore ambizione e solidarietà. La crisi del coronavirus ha certamente mostrato alcuni limiti della costruzione europea, ma proprio mettendo a nudo tali carenze ha permesso di fare importanti passi in avanti, ricompattando la solidarietà interna tra i suoi membri. La sospensione del patto di stabilità, l'allentamento dei vincoli al sostegno pubblico dell'economia hanno consentito manovre emergenziali espansive altrimenti precluse agli Stati. Sono certo che il superamento del tabù dell'indebitamento comune costituirà la base per il piano di rilancio e la futura crescita europea. E poi invece i temi di carattere più nazionale toccati dal ministro degli esteri, perché Di Maio ha detto che occorre rivedere l'agenda dell'Italia, occorre un cambio di passo anche all'interno del nostro paese attraverso anche una collaborazione internazionale. Sentiamo questo passaggio e poi invece dopo citeremo anche la parte che riguarda il patto sull'export, però intanto sentiamo Di Maio sulla cosiddetta agenda Italia. Ritengo che l'Italia abbia un'agenda ambiziosa, risorse a sufficienza e occasioni importanti per ripartire e incidere sul mondo che verrà dopo la pandemia. Abbiamo anzitutto l'interesse e il dovere di contribuire all'aggiornamento del multilaterale. Un multilateralismo solido, efficace e basato su regole comuni rimane l'argine principale alla disgregazione dell'ordine internazionale. E poi il tema del patto per l'export, ne abbiamo parlato, era lo scorso 8 giugno se non ricordo male, un patto per tornare a favorire la ripresa delle esportazioni italiane. Il governo ha stanziato 1 miliardo e 400 milioni di euro per realizzare 6 obiettivi, intanto migliorare la comunicazione del Made in Italy, la promozione integrata delle eccellenze del Made in Italy, e poi il rafforzo del sistema fieristico e anche dell'e-commerce, la cui importanza è emersa in maniera molto chiara durante anche il lockdown. E su questo c'è stato un riferimento oggi, questa mattina per la precisione, da parte del ministro Di Maio. Abbiamo concepito il patto per l'export proprio nei giorni più critici della pandemia come una strategia flessibile per favorire la ripresa delle nostre esportazioni. Crediamo e la capacità di modulare le risorse e gli strumenti a supporto delle imprese rispetto all'evoluzione della congiuntura economica rappresenti il valore aggiunto. Tirando le somme di questa panoramica, andando alle conclusioni, ritengo che l'Italia abbia un'agenda ambiziosa, risorse a sufficienza e occasioni importanti per ripartire e incidere sul mondo che verrà dopo la pandemia. Allora, nel frattempo è arrivata anche una notizia che riguarda l'Italia, una notizia che arriva dall'Unione Europea, perché la Commissione Europea ha dato via libera alla concessione di aiuti per 200 milioni di euro da parte dell'Italia all'Italia. Attenzione, non si tratta del prestito ponte, in questo caso è un via libera per compensare le perdite subite a causa della pandemia da coronavirus. Sappiamo che tutti gli stati nazionali hanno destinato risorse alle loro compagnie aeree, lo ha fatto la Francia con Air France, la Germania con Lufthansa, e questo via libera riguarda solo la quota parte sulle perdite subite a causa della pandemia, e immagino che sarà solo appunto una quota parte purtroppo del totale. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Io vi auguro un buon fine settimana, ringrazio Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro e Alessandro Longoni per l'assistenza in redazione e in studio. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.